recitò, mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio. Eppure tua parte sforzati, oh!